c'è da dire che i piani noi ancora li dobbiamo vedere. C'è questa attività che la regione sta facendo di presentazione appunto di questi piani speciali. Comincerà effettivamente l'illustrazione dei singoli piani giovedì 27, quindi è ancora prematuro dire che cosa ne pensiamo, dobbiamo ancora oggettivamente vederli. Secondo me è importante comunque che ci sia stata una riflessione allargata sulla gestione dei fiumi in regione, nel senso che è stato coinvolta l'autorità di bacino cercando di fare un ragionamento complessivo, quindi non riguardi diciamo fiume per fiume, ma in realtà appunto una visione d'insieme di tutti i corsi d'acqua della regione. Le azioni che sono previste riguardano i fiumi, ma riguardano anche la delocalizzazione di edifici, lo sviluppo urbanistico, insomma, in qualche modo. Voi avete dato dei consigli alla regione? C'è qualcosa che si può fare proprio nell'immediato per evitare nuovi allagamenti, perché in queste ore appunto sta piovendo più del normale? Allora, noi abbiamo avviato un osservatorio che riguardava la ricostruzione, in particolare nell'area colpita dall'alluvione del 2023. All'interno dell'osservatorio noi abbiamo dato alcune indicazioni che la regione pare aver colto, diciamo. La prima cosa riguarda ovviamente la possibilità di ridare più spazio ai fiumi dove è possibile. Riguarda anche la delocalizzazione. Capiamo che è un argomento molto delicato e sicuramente, come dire, andrà affrontato con un'ampia condivisione sul territorio delle attività e delle abitazioni private eventualmente da delocalizzare. E poi abbiamo anche chiesto che vengano rivisti i PUG dove sono stati fatti o gli altri piani urbanistici ancora vigenti, nel momento in cui le previsioni di edificazione riguardavano aree che erano già state colpite dall'alluvione di maggio 2023. Questo per evitare che situazioni del genere vadano a ripetersi in futuro, perché purtroppo, come vediamo, il regime delle precipitazioni è cambiato e quindi non possiamo più far conto su quello che avveniva fino anche solo a 5-6 anni fa. Bisogna che cambiamo modalità di ragionamento e di vita anche sui nostri territori. Quindi di fatto non ci sono soluzioni immediate, perché bisogna comunque aspettare che avvenga questa presentazione del piano, oppure ci sono delle cose che si stanno facendo proprio in queste ore? Quello che è stato fatto per quello che riguarda la Romagna ovviamente sono stati interventi di messa in sicurezza in massima urgenza, quindi tutto quello che poteva garantire la ripresa dello scorrere dei fiumi nei loro alvei, un minimo di sicurezza per garantire comunque la vita alle popolazioni sul territorio. La gran parte dei lavori ovviamente sono ancora da realizzare appunto per quello che riguarda la Romagna. Per quello che riguarda il resto del territorio regionale ancora non si è fatto quasi niente in sostanza, però è anche vero che la protezione civile è sempre attiva, che tutti i sistemi di allerta sono estremamente efficaci. Era già da alcuni giorni che comunque erano indicate le varie allerte a livello regionale per la possibilità delle precipitazioni, e questo già secondo noi un buon campanello d'allarme. Magari andrebbe diffuso meglio, però, come dire, diciamo, la stampa sta aiutando molto in questo senso, quindi ci auguriamo che questa collaborazione sulla diffusione delle allerte continui. Questo è al momento quello che nell'immediato si può fare. Poi è chiaro che l'applicazione di questi piani richiederà del tempo, soprattutto ci auguriamo che venga fatto appunto anche un lavoro di condivisione con il territorio, in modo che gli eventuali espropri, delocalizzazioni, quello che serve per garantire la futura sicurezza di queste aree, non trovi, come dire, una popolazione ostile perché non ha compreso, non è stata coinvolta nei processi decisionali.